Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, oggi la giornata economico-finanziaria si snoda su tre fronti sostanzialmente. Il primo fronte si chiama Atene, il secondo fronte si chiama Francoforte, il terzo fronte si chiama Cannes, ossia la decisione greca di sospendere il referendum, l'accordo con l'opposizione, vi arriviamo subito. La decisione della Banca Centrale Europea, la prima decisione di Mario Draghi di tagliare i tassi di interesse, abbastanza sorpresa, già ancora ieri sera c'era molta incertezza sul da farsi, su cosa avrebbe deciso Mario Draghi. La decisione è stata netta, tagliati i tassi di interesse che a questo punto vanno all'1,25% contro l'1,5% precedente, ma al di là del quarto di punto è l'effetto simbolico e politico, diciamo così, della decisione ad essere stato particolarmente apprezzato dai mercati, tant'è che tutte le borse poi hanno preso a crescere. Milano aveva aperto molto male, aveva aperto molto male la borsa e molto male anche lo spread, schizzato a un nuovo record. Poi, dopo la decisione della Banca Centrale Europea e dopo anche le notizie che arrivavano da Atene, lo spread si è ridotto, resta ahimè sopra i 400 punti a 430, però era arrivato a 460, un nuovo record storico. E ancora bene Milano più 3,13%, come dicevamo nel GR, i titoli che crescono di più sono quelli legati al ciclo industriale, non tanto i bancari. Tenaris più 14%, Finmeccanica più 8%, Steamark Electronics più 7%, il bancario che cresce di più è la Popolare Emilia Romagna più 5,54%, poi Ubibanca 4,60% e Unicredit è intesa il 3,5% di rialzo. Negativa anche oggi la Popolare di Milano, ma qui c'è l'aumento di capitale, meno 2,40%. Tenaris è in assoluto il miglior titolo oggi in borsa, mentre il peggior titolo è la Trevi Finanziaria, meno 7%. Ma dicevamo, fronte greco, fronte Banca Centrale Europea, mi verrebbe da dire fronte tedesco, anche i tedeschi pensano che sia loro, ma è solo loro la sede, e poi il fronte europeo a Cannes, dove il Presidente del Consiglio Berlusconi, come avete sentito, ha anticipato che sul maxi emendamento verrà posta la fiducia. Ancora moltissimi dubbi su che cosa ci sia dentro questo maxi emendamento. E quindi su questi tre fronti si svilupperà oggi il programma, raccontandovi la cronaca. Avremo poi un approfondimento legato invece alla Liguria, perché a una settimana dal disastro, oggi la Confindustria Ligure riesce a fare i primi calcoli dei danni, mentre nubi non solo metaforiche ma anche meteorologiche si stanno di nuovo addensando sulla Liguria, in particolar modo sulle Cinque Terre. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora eccoci con le altre notizie in breve. L'effetto alluvione in Liguria e Toscana ha portato dal 1° di novembre la benzina ad aumentare di un centesimo, cioè una nuova accisa di un centesimo, e quindi oggi la benzina va a record, 1,648 euro, al sud sfiora 1,70 euro. Io non posso rifarvi il calcolo però di nuovo, perché noi non capiamo come mai il prezzo del petrolio sia più basso rispetto a 3 anni fa. L'euro, anche guardando il rapporto euro-dollaro, non si giustifica il prezzo della benzina, però veramente non se ne può più, non riusciamo a capirlo. L'oro in aumento a $1,750 l'oncia, il petrolio con anche le pressioni europee alla Grecia è tornato a $93,8 al barile. Dicevamo della giornata, era iniziata malissimo per l'Italia, alle 8.54 le agenzie battevano uno spread a record a 462 punti, quindi vicini a 500 punti, che vuol dire che il rendimento delle obbligazioni italiane viaggiava verso il 6,60% almeno. E poi la Banca Centrale Europea è intervenuta per comprare BTP italiani, Secondo Deutsche Bank è l'unico soggetto che sta comprando, l'unico operatore che sta veramente comprando obbligazioni italiane. Le ha comprate in questo modo e assieme alla decisione della Banca Centrale Europea di tagliare i tassi di interesse, lo spread è tornato a 430 punti, che è un livello altissimo, lo dico per evitare confusione. Cioè, un mese fa ci saremmo strappati le vesti per uno spread a 430 punti, perché già 340 erano tanti. Adesso, come sempre nella vita, ci si abitua a tutto e festeggiamo, tra virgolette, che non sia 4,60 ma sia 4,30. Però i gruppi bancari europei continuano a vendere debito italiano, non a comprare, a vendere. Oggi è stata la volta del gruppo bancario francese BNP Paribas, che ha ridotto la sua esposizione praticamente di 8 miliardi, quindi ha venduto 8 miliardi di obbligazioni italiane, ne aveva per 20 miliardi, adesso ne ha per 12 miliardi. Questo però non l'ha fatto oggi, si è scoperto che l'ha fatto, diciamo, è il calo dell'esposizione che si è realizzato tra il 30 giugno e il 30 settembre. Il governatore della Banca d'Italia, invece, Ignazio Visco, oggi ha precisato che la dichiarazione di ieri che il debito italiano reggerà o reggerebbe anche con dei BTP che schizzassero all'8% era un calcolo teorico, era un esercizio teorico. E poi ha definito la situazione della Grecia molto difficile, ma lo ha fatto questa mattina prima delle novità che adesso vi raccontiamo. E allora, prima di arrivare a questi tre fronti, Atene, Francoforte e Cannes, due o tre notizie per farvi arrabbiare, un po'. Magari cambiamo anche questa base. Vorrei leggerle con attenzione, perché tutti si dicono in Parlamento italiano distrutti dalla situazione, poi però nei comportamenti privati continuiamo a raccontare cose molto diverse, sia a livello parlamentare che anche a livello regionale. Allora, raccontiamo due o tre cosette e poi partiamo con i temi seri. Potremmo iniziare dai lavori parlamentari in tempo di crisi, no? Cioè, tu immagina che i deputati siano tutti lì ad arrovellarsi sulla coalizione di governo, su cosa fare. Ebbene no, invece in questa settimana cruciale per le sorti dell'economia italiana, modestamente noi eravamo come tutti i programmi della radio in diretta, anche durante la festività, il Parlamento, sapete quante volte si è riunito? Cioè, quante volte i deputati sono dovuti entrare in aula? Una volta e mezzo, direi. Infatti la seduta di ieri è iniziata solo alle 16, perché c'era un motivo di Stato, un motivo di forza maggiore. I deputati che erano in vacanza dovevano avere il tempo di presentarsi in aula senza anticipare troppi rientri. Ma voi immaginate se in un gruppo privato o pubblico si lavorasse così? Cioè, come diceva, guarda, però giovedì e mercoledì puoi rientrare entro le 16, perché ho capito, sei via per il ponte, quindi non voglio che ti distressi troppo a tornare la sera, magari a trovare traffico al casello, restare incolonnato, torna tranquillamente alle 16, alle 13, alle 15, pensa che bello. E comunque lo sforzo e anche il venire incontro ai deputati non è che abbia prodotto tutti questi risultati, perché ieri, nonostante la possibilità di arrivare alle 16, si sono presentati in 12, 3 del PDL, 3 del PD, 1 della Lega e 1 dell'UDC, e gli altri non ce l'hanno fatta in tempo. Andiamo bene, proprio bene. E poi invece i buoni costumi dei consiglieri regionali. Adesso parliamo di Napoli, ma parliamo spesso anche di altre regioni, perché da un lato c'è questa iniziativa che va avanti, forse alcuni di voi l'hanno persa, ma insomma tutto è nato in una pizzeria in via del Tribunale del Centro Antico di Napoli, dove si è deciso, visto quello che è il costo del menù alla Camera, del ristorante della Camera, no? Quello del pranzo, l'abbiamo raccontato, alla Camera, al Senato, 7,50 euro per mangiare branzino, dolce. Allora, sapete a Napoli cosa hanno deciso di fare? Gli fanno pagare 10 volte tanto. No, non sto scherzando, è successo a Sergio D'Antoni, che è parlamentare del PD, è andato in pizzeria e gli ha chiesto 100 euro per una pizza. Pizzeria Sorbillo in via dei Tribunali, centro antico di Napoli. L'accordo è che se i deputati italiani si ridurranno i benefit e gli stipendi, la campagna di questi ristoratori napoletani, che sono 30 ormai, non sono pochissimi, si fermerà. Quindi chiederanno, sono 30 ristoranti che hanno già aderito, caffè a 90 euro, panini a 350 euro e poi i pastori di San Gregorio almeno a 1200 euro il pastore, solo se sei un deputato. Se sei un cittadino normale paghi quello che è in listino. E invece però complimenti a Annalisa Vassella, consigliera regionale della Campania. È moglie del deputato dei responsabili Michele Pisacane, ma è da pochi mesi anche amministratore delegato dell'Istituto di Sviluppo Agroalimentare, che sarà un'agenzia importantissima, appartiene al Ministero dell'Agricoltura. Perché dico complimenti? Perché non solo la signora già guadagna 10.000 euro al mese come consigliere regionale, ma essendo un periodo difficile questo, poco dopo la sua nomina, l'assemblea dell'Istituto di Sviluppo Agroalimentare ha deciso di aumentare lo stipendio quadruplicandolo a tutti. Praticamente l'amministratore delegato adesso guadagnerà 140.000 euro lordi l'anno più 117.000 euro di indennità e 55.000 euro forfettari per alloggio e auto. E io pago! E io pago! Annalisa Vassella, speriamo ci stia dentro, perché tra 10.000 euro al mese più questi 280.000 euro tra forfettari, indennità e lordi per fare appunto il numero uno dell'Istituto di Sviluppo Agroalimentare, che avrà decisioni epocali da prendere nei prossimi giorni, in bocca al lupo anche lei. Vabbè, andiamo alla Grecia, che forse è più seria in questo momento da quello che ho letto. La Grecia, 349-238-6666 per i vostri sms. Vedo che ci sono ascoltatori che scrivono al 349-238-6666 che vogliono imitare l'esempio dei ristoratori napoletani. Imitatelo, nessun... io non faccio deputato. Queste cifre, volete sapere la lista? Napoli, 30 ristoranti, 90 euro il caffè se sei deputato, 350 euro il panino se sei deputato e appunto se vuoi comprarti un pastore per il presepe, 1200 euro. La Grecia ha preso paura, Papandreou, che aveva tentato quel colpo dicendo vabbè, visto che non ho la fiducia parlamentare, che la fiducia ce l'ho per un deputato, mando tutto al referendum, se vincono i sì mi blindo, se vincono i no ho perso. Ha tentato, ma ieri la Germania ha fatto capire che non staccava l'assegno per la Grecia finché non si chiariva questa cosa del referendum e la paura fa 90. Vittorio Darold, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, nell'ordine di importanza... ha avuto conferma la cancellazione del referendum e a questo punto Papandreou si dimetterà, andrà a un governo di coalizione per andare poi alle elezioni? Allora, la questione è sicuramente sì alla prima domanda, cioè il referendum tanto contestato e che ha fatto precipitare le borse, lo ricordate tutti, di mezzo mondo, è quindi cosa finita, è nel dimenticatoio, è in soffitta. Quanto agli sviluppi della crisi politica, bisogna aspettare, perché Papandreou sta parlando in Parlamento in questo momento e per quanto ne sappiamo al momento ha solo detto che c'è la sicurezza che il partito di opposizione, il maggior partito di opposizione, Neodemocrazia, il partito conservatore, ha detto che voterà in aula il piano europeo. A questo punto Papandreou ha detto: se abbiamo la maggioranza di tutte le forze, le maggiori forze politiche al piano, è inutile andare al referendum. Ecco quindi perché il referendum è stato tolto. Su cosa succederà? Cioè, se lui si dimetterà, andrà dal presidente Papoulias, andrà a un governo tecnico o un governo di maggioranza di unità nazionale? Questo ancora non è dato sapere. Al momento, domani ci sono un voto di fiducia e il referendum è cosa finita. Questo è quanto. Sì, l'ok di Papandreou al governo di transizione è questo, cioè non si capisce se sarà lui alle prossime elezioni oppure no. Tra l'altro, insomma, è chiaro che a fare 90 è stata la paura dei mancati finanziamenti. La Grecia ha soldi fino a metà dicembre, per cui se non arrivano i soldi degli 8 miliardi, anche la parte tedesca, che permettono di arrivare fino a metà gennaio, a metà dicembre la Grecia chiude. Sì, la verità è che probabilmente Papandreou, ricordiamolo, è il terzo primo ministro della famiglia dei Papandreou, cioè suo nonno è stato primo ministro, suo padre è stato primo ministro, Andreas, e lui è primo ministro, quindi non è un parvenu della politica, è uno che la politica la conosce bene. Che cosa ha voluto fare? A mio avviso ha fatto il classico gioco d'azzardo, cioè ha costretto l'opposizione, che fino a ieri in piazza sosteneva ad esempio le rivolte dei tassisti, che come voi sapete in Grecia adesso sono state liberalizzate le licenze. Una licenza di tassista che costava 200.000 euro oggi costa 5.000 euro. I tassisti da mesi sono in piazza, sostenuti appunto dall'opposizione. Ma questo è solo un esempio. Sono anche i camalli del porto del Pireo, ci sono gli avvocati e i farmacisti, ci sono i trasportatori, insomma, ci sono tutte quelle categorie che Papandreou, naturalmente gli statali che sono stati, come voi sapete, gli hanno ridotto lo stipendio del 40%. Insomma, cose pesanti. Ecco allora che tutto questo blocco, in qualche modo, ha fatto sentire la sua voce. Sì, tra l'altro Papandreou ha detto oggi anche, attenzione, con le elezioni vi sarebbe il rischio di una bancarotta del paese, cioè l'ennesimo atto di incertezza. Una domanda per concludere, però, Vittorio. Il rendimento delle obbligazioni greche, teorico, forse ho letto male io, ma insomma, il BOT a due anni, il BTP a due anni, rende il 107%, cioè noi siamo qui a preoccuparci per il 7% che sarebbe una soglia pericolosa. È chiaro che questa roba qui non viene neanche, non esiste un mercato, è un rendimento teorico, ma nessuno va a chiedere un prestito, è come se chiedessi 10.000 euro di prestito e tu in cambio e dovessi ridarti dopo due anni 20.700 euro, roba del genere, una follia. Però 107%. Sì, esattamente, il biennale ha raggiunto, ieri era al 94, oggi al 107%, è naturalmente, come dicevi tu, un interesse assolutamente teorico, però dal senso che praticamente il paese è in bancarotta, cioè il paese oggi, se non avesse questo 8 miliardi di tranche, la sesta tranche, ricordiamo, del primo piano di salvataggio, quello che venne varato nel maggio del 2010, quello che doveva risolvere tutto, perché la Grecia, vi ricorderete, avrebbe avuto subito da quest'anno già una crescita. Ahimè, la crescita è stata del meno 5,5 e l'anno prossimo sarà del meno 2,5. Sì. Devo dire però che delle volte, e non è che voglia accusare i tedeschi, anche se secondo me i tedeschi hanno grosse responsabilità nel non aver saputo gestire la crisi greca, andava salvata subito, commissariando il paese come poi è stato fatto, perché ormai non riescono neanche più a decidere di fare un referendum che devono rimangiare solo dopo due giorni, quindi il paese è di fatto a sovranità limitata. Allora potevi farlo un anno fa, risparmiavamo 1.000 miliardi bruciati dai mercati azionari, risparmiavamo le tensioni sull'Italia e sulla Spagna, e a questo punto potevi anche usare misure un po' meno draconiane. Cioè, è chiaro che quando tu chiedi tagli gli stipendi del 40%, ma come ti aspetti che un paese cresca? Cioè, non combatti l'evasione perché non hai tempo per combattere l'evasione, e quindi vai a ridurre tutte le spese di welfare, è ovvio che poi il paese non cresce e si va alla fame. Immaginate se da noi tagliassero gli stipendi degli statali al 40%, bloccheresti il paese nell'arco di un minuto. Grazie Vittorio Darold per quello che riguarda la pagina greca. Noi da Atene ci spostiamo invece a Francoforte. Darò anche qualche risposta a chi dice: ma perché vi occupate di cose così facete come gli stipendi dei consiglieri regionali campani o l'iniziativa contro o quanti deputati erano presenti ieri in Parlamento, che è pure priva alle 16? Perché così, perché ci piace. Lo so, lei dice che sono cose inutili, secondo me no. Mario Draghi arriva il 1° di novembre, il 2 di novembre gestisce la pre-riunione della BCE e poi oggi direttivo della Banca Centrale Europea, e subito si vede quello che potrebbe essere il tono, il taglio, la linea dettata dal neo governatore. Taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, anche se non c'era un consenso all'inizio fortissimo, poi la decisione è arrivata in maniera unanime, e vi facciamo sentire adesso Mario Draghi. Sarà così per i prossimi 4 anni, è italianissimo Mario Draghi, però siccome parla in inglese lo dobbiamo doppiare, so che sembra un po' strano, comunque Mario Draghi sull'Italia dice: attenzione, deve mettere in ordine le finanze e fare le risposte strutturali. Questa è la risposta a chi chiedeva un commento sui rendimenti dei titoli di Stato italiani. It's clear that the first and foremost responsibility with maintaining financial stability and orderly financial conditions. È chiaro che la prima e più importante responsabilità nel mantenere la stabilità finanziaria e i conti in ordine spetta alle politiche economiche nazionali. In un certo senso, serve veramente a poco pensare che i rendimenti dei titoli di Stato potrebbero scendere per un periodo di tempo prolungato, grazie a interventi esterni. Il primo pilastro risiede nelle risposte economiche nazionali, e queste risposte si compongono di 2 elementi. Il primo è nel mettere a posto i conti pubblici, il secondo nell'intraprendere la strada delle riforme strutturali. In questo modo si migliora la competitività, si aumenta la crescita e l'occupazione. Is enhanced and thereby growth and job creation. Beh, fatemi fare un primo commento. Finalmente un italiano che parla l'inglese bene, benissimo. Mario Draghi ha lavorato anche alla Goldman Sachs, molti questa cosa la criticano, però insomma, un inglese perfetto, dopo i casi, qualcuno ricorderà Rutelli, please visit Italy, o Berlusconi, Noyons e quant'altro. Mario Draghi è un inglese perfetto, ma lo risolveremo, ossia lo doppieremo ogni volta. Alessandro Merli, che ha seguito appunto il direttivo della Banca Centrale Europea per il Sole 24 Ore in collegamento da Francoforte. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera. Ottimo l'inglese di Draghi, sei d'accordo? Sì, credo che non sia stata la cosa che l'ha fatto scegliere, non sarà caratterizzerà il suo mandato per i prossimi 8 anni, 8, no? 4 anni. 8, hai ragione, 8, 4 più 4. 8 anni. E credo invece che abbia dato un'impronta molto chiara fin da oggi a quello che sarà il suo mandato, intanto sorprendendo i mercati, non tutti, devo dire, qualche economista di mercato aveva anticipato una decisione di taglio, però diciamo che la grandissima maggioranza, oltre che la maggior parte degli operatori, si erano posizionati per tassi immutati, e come hai giustamente sottolineato non solo i tassi sono stati tagliati, ma sono stati tagliati all'unanimità. Il che può voler dire 2 cose: uno, che Draghi ha delle capacità diplomatiche che tutti gli riconoscono, e ha messo assieme le varie fazioni del Consiglio della BCE che il mese scorso sembrava molto spaccato, e l'altra forse anche che quando usciranno le previsioni della BCE a dicembre sull'andamento dell'attività economica e dell'inflazione per il 2012 saranno molto peggiori di quelle precedenti, e quindi la Banca Centrale Europea ha deciso di muoversi in modo preventivo. Perché i tassi li tagli quando devi aiutare l'economia, questo da sempre, quindi riduci il costo del denaro per favorire l'utilizzo del denaro stesso e quindi rendere più facile il ricorso a prestiti anche bancari. Questo giochino non sta funzionando nel momento in cui le banche però non stanno prestando i soldi né alle imprese né ai privati, perché non si temono di dover fare gli aumenti di capitale, nel caso dell'Italia gliel'hanno proprio chiesti, e tra di loro non si prestano soldi, quindi vanno a cercarli col tasso overnight o overnightmare, come lo chiamo io, con le altre banche, con la Banca Centrale Europea. Però tu hai ragione nel dire che non sarà l'inglese la connotazione di Mario Draghi, però è anche vero Alessandro, l'unanimità c'è stata come comunicato ieri in serata, non è che tutti fossero d'accordo su una riduzione dei tassi di interesse, cioè c'è un ampio margine. Ma è difficile dire che cosa sono detti nella cena di ieri e nel consiglio di stamattina, perché naturalmente noi non partecipiamo a queste riunioni. Sappiamo sicuramente che il consiglio era molto diviso fino al mese scorso, l'ultimo riscontro pubblico che abbiamo, perché Trichet aveva ammesso pubblicamente che i tassi erano rimasti fermi, ma che c'era stata molta discussione in Consiglio e che il Consiglio era nettamente diviso su questa come su altre questioni. Quindi questo è un aspetto interessante. L'altro aspetto interessante credo che siano i toni usati da Draghi nei commenti che ha fatto, soprattutto nel domanda e risposta, sia nella sua introduzione, ma soprattutto nel domanda e risposta con i giornalisti, quando ha messo molta enfasi su questa questione della crescita, naturalmente. Allora lo facciamo ascoltare dopo della BCE. Lo facciamo ascoltare dopo il meteo, Alessandro, perché mi interessa anche, essendo il primo intervento pubblico di Mario Draghi da Presidente della Banca Centrale Europea. Così, anche un tuo commento, se si riesce, sulle differenze anche di stile. Lo stile delle volte diventa anche sostanza rispetto a Trichet, però dopo il meteo facciamo anche ascoltare Draghi che spiega perché abbassa i tassi di interesse, ossia, come tu ricordavi, i timori che la crescita, soprattutto nel 2012, sia ben più debole delle attese. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, Mario Draghi, i motivi per cui ha abbassato i tassi di interesse. Based on its regular economic and monetary analysis, the Governing Council decided to reduce the key ECB interest rates by 25 basis points. Sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di abbassare i tassi di interesse di 25 punti base. L'inflazione è rimasta elevata e ci aspettiamo che resti sopra il 2% nei prossimi mesi, prima di scendere nel 2012 sotto il 2%. Ci aspettiamo che le attuali tensioni sui mercati finanziari indeboliranno il ritmo di crescita economica nell'area euro nella seconda metà dell'anno e anche oltre. Lo scenario economico resta soggetto a un'incertezza particolarmente elevata e a rischi al ribasso ancora più intensi. Alcuni di questi rischi si sono materializzati, il che porterà probabilmente a una significativa revisione al ribasso delle previsioni di crescita nel 2012. È essenziale che la stabilità dei prezzi sia mantenuta nel medio termine in modo da ancorare le attese di inflazione in linea con il nostro obiettivo di un'inflazione sotto, ma vicina al 2% nel medio termine. Infine, la decisione di oggi è stata unanime. The decision was unanimous. Allora, Alessandro Merli, tu già accennavi allo stile. Draghi molto interventista, anche abbastanza a sorpresa. I rischi sulla crescita purtroppo non sono una buona notizia, per cui uno festeggia la riduzione dei tassi di interesse, ma si preoccupa perché l'economia frenerà di brutto nel 2012. Possiamo tentare un parallelo Draghi-Trichet? Un confronto, scusami. Beh, diciamo che forse è un po' presto, nel senso che Draghi ha solo una conferenza stampa alle sue spalle, però si notano già alcuni elementi. Trichet stava molto attento a non deviare da alcune frasi in gergo. L'inflazione. E che ripeteva, sì, ma oltre all'inflazione proprio il modo di esprimersi sui tassi, la vigilanza, la stretta vigilanza, insomma tutta una serie di frasi in codice che poi gli ECB watchers, cioè quelli che passano tutto il giorno a scrutare ogni segnale dalla BCE come facevano i cremlinologi, pensa che vita, cercano di interpretare, è una vita dura ma che purtroppo qualcuno deve fare. E invece Draghi, diciamo che ha cercato di spiegare più ampiamente le decisioni della sua scelta, si è diffuso come nel brano che avete riportato sulla spiegazione del taglio dei tassi di interesse, ha addirittura quasi fatto una battuta quando gli è stato chiesto se pensa di essere nel solco della tradizione della Bundesbank e lui ha detto che sì, che ha un grandissimo rispetto per la Bundesbank, comunque di richiederglielo fra sei mesi o fra un anno. Insomma, diciamo che è apparsa molto controllata la conferenza stampa di Draghi, perché è nel carattere dell'uomo, però anche forse più aperta nel tentativo di spiegare alcuni fenomeni e il perché di certe decisioni, al di là appunto di questo strano gergo, di queste locuzioni che aveva. Sì, diciamo un po' meno ermetico rispetto o anche ortodosso rispetto a Trichet, che appunto, come tu ricordavi, ridendo, abbiamo detto nella sua ultima conferenza stampa che ogni tanto Trichet poteva mandare in onda i file, cioè gli audio di due anni prima, la frase era sempre uguale, magari cambiava solo il tasso, però le frasi erano sempre uguali. Draghi ha articolato un po' di più sul ragionamento e ha avuto anche un altro atteggiamento. Ho scatenato non so che cosa al 349-238-6666 con la mia battuta che Draghi parla bene l'inglese. Quindi dicono, ma insomma lui ha studiato all'MIT di Boston, è chiaro, per carità. Altri dicono, sta iniziando la mitografia di Draghi. No, però si può anche dire che ogni tanto qualche italiano va all'estero, fa bella figura a livello istituzionale, no? Grazie Alessandro Melli, spostiamoci a Cannes a proposito di italiani all'estero. Sì, nel frattempo è arrivato anche pieno appoggio del Fondo Monetario Internazionale al taglio dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea e da Cannes la Presidente Confindustria Emma Marcegaglia ha detto il taglio dei tassi è un sostegno alla crescita. Piove sul bagnato invece a Cannes, dove ha preso il via il vertice dei G20, una colazione di lavoro, poi gli incontri nel pomeriggio. Francia e Stati Uniti hanno trovato un punto comune da inserire nel comunicato finale del G20 sulla tassa per le transazioni finanziarie. Wall Street e quindi anche Washington l'ha sempre osteggiata fino ad adesso, però c'è stata un'apertura che avete letto probabilmente da parte della Casa Bianca a un'eventuale tassa dello 0,3% sulle transazioni finanziarie e tra l'altro dichiarazioni anche molto attese erano quelle del Presidente del Consiglio Berlusconi. Ci colleghiamo allora con Antonio Poglio Salimbeni, inviato per Radio Corriere sulle 24 ore a Cannes. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Hai sentito il ragionamento di Alessandro Melli su Draghi. Com'è stata accolta la notizia della Banca Centrale Europea a Cannes? Beh, naturalmente è stata accolta con grande favore, con grande soddisfazione. In qualche modo la BCE si allinea o segue insomma la valutazione della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, e naturalmente qui la preoccupazione è che una stretta fiscale contemporanea in tutti i paesi poi faccia sì che i governi si scavino un po' la fossa, perché senza crescita non c'è possibilità di ripagare i certo. debiti, e il taglio dei tassi facilita in qualche modo la crescita, o meglio impedisce che da una fase di pre-recessione si arrivi alla recessione vera. Tra l'altro mi sembra che anche da Cannes, purtroppo, come da Francoforte con la Banca Centrale Europea, tutti si attendano un 2012 in brusca frenata. Io ricordo che la scorsa settimana abbiamo avuto ospite il capo economista dell'Ocse, Giancarlo Padoan, che ci ha detto attenzione, l'area euro secondo le nostre stime l'anno prossimo crescerà dello 0,3%, cioè stagnazione, che è una media, perché vuol dire che ci sarà chi crescerà dell'1,3% e chi crescerà di un meno 0,7 o giù di lì, e qui poi ognuno può fare, mettere nelle caselle chi vuole. Io temo che la Germania sia la prima e altri paesi siano la seconda. Comunque ci confermi che il timore sulla frenata è ben presente ai capi di Stato e di Governo? Certamente, è ben presente dalla bozza del comunicato finale, si fa riferimento a un piano per la crescita, un action plan, per la verità non ci sono cose nuove, però la questione è ben presente e dà lo stesso valore della necessità di dare una risposta alla crisi del debito sovrano nell'Eurozona. Dopo il traffico, invece, quello che hanno deciso Sarkozy e Obama sulla tassa per le transazioni finanziarie, e poi arriveremo anche invece al fronte italiano, però dopo i mercati. 349-238-6666 per i vostri sms. Antonio Poglio Salimbeni, allora l'altro elemento forte al di là diciamo dell'allarme, del timore sulla frenata dell'economia e del caso greco che insomma abbiamo ampiamente commentato in apertura del programma, riguarda una prima intesa, cioè Obama-Sarkozy. Al di là della battuta di Obama che ha detto a Sarkozy spero che tua figlia Giulia assomigli alla mamma, dico per inciso che se l'avesse fatta Berlusconi se lo sarebbero mangiati, questo va detto, Però sentiamo Sarkozy, Nicolas Sarkozy, nell'intesa firmata con Obama sulla tassa per le transazioni finanziarie. Nous avons eu un ordre du jour très chargé. L'agenda di oggi è molto fitta, perché gli elementi di preoccupazione non mancano. Noi abbiamo bisogno della guida del presidente Obama, della solidarietà degli Stati Uniti e di un'analisi comune su come rimettere il mondo sulla via della crescita e della stabilità. Noi cerchiamo insieme di costruire l'unità del G20. Voglio sottolineare la comprensione da parte degli Stati Uniti sui temi che ci hanno accompagnato nelle ultime 48 ore e in particolare quelli legati alla crisi greca e alle difficoltà dell'euro. Nel comunicato finale sarà inserita la convergenza con il presidente Obama per ciò che riguarda la tassa sulle transazioni finanziarie. Abbiamo confrontato i nostri punti di vista e trovato un'analisi comune per far sì che il mondo della finanza contribuisca alla soluzione della crisi attuale. Trouver une analyse commune pour faire contribuer le monde de la finance à la résolution de la crise d'aujourd'hui. E tra l'altro anche la Gran Bretagna, per voce del primo ministro britannico David Cameron, ha detto che di essere d'accordo ad appoggiare questa forma di Tobin Tax, quindi di tassazione sulle transazioni finanziarie. Antonio Pagliasini, ci si aspetta qualche altro accordo o forse questo sarà il principale nell'asse atlantico, diciamo? No, non ci si aspetta nient'altro, devo dire. Poi bisognerà vedere in effetti domani quale forma effettivamente prenderà questa allusione o questa convergenza sulla tassa sulle transazioni finanziarie. Io sarei molto cauto, aspettiamo domani e vediamo. Senti, ma i cinesi e soprattutto i cinesi, ma anche i brasiliani, continueranno a comprare il nostro debito o no? Tu l'hai capito? Ma veramente, questo sicuramente sì, in discussione non è tanto questo, sia Giappone che Cina e Russia, se non mi sbaglio. Anche la Russia, giusto? I leader dei tre paesi hanno detto che continueranno a comprare i titoli emessi dal fondo Salva Stati, l'FSF, quello che raccoglie capitali sul mercato, poi li prende e li presta ai paesi in difficoltà. Ma sul tavolo però c'era un'altra cosa, c'era la partecipazione dei grandi paesi emergenti al finanziamento del veicolo speciale o dell'FSF per aumentarne le capacità di azione. Su questo tutti i tre grandi paesi dicono: vogliamo capire di più, vogliamo vedere i dettagli, vogliamo capire come questo fondo funzionerà e soprattutto tutte le operazioni, secondo noi, devono passare dal Fondo Monetario Internazionale. Quindi sono molto molto prudenti. Molto molto prudenti, hai ragione. Grazie Antonio Pagliasini, bene in collegamento con noi da Cannes. Prima di arrivare invece al fronte italiano, quindi la presenza del premier Silvio Berlusconi, le attese sull'Italia, l'incontro questa mattina al prevertice in cui Germania e Francia hanno chiesto di incontrare Spagna e Italia per capire cosa ci fosse nel maxi emendamento italiano. Non c'è molto, nel senso che non abbiamo ancora notizie, però la borsa. Ancora per quello che riguarda i messaggi, poi torniamo anche ai costi della politica, però adesso il tema è un altro: più 3,23% Milano, più 2,70 Parigi, più 2,80 Francoforte, più 1,12 Londra. L'America guadagna l'1,23%, l'euro a quota 1,37, Milano è arrivata a guadagnare anche il 4% dopo una partenza molto pericolosa, meno 2% con lo spread schizzato a 360 punti. È arrivato Super Mario, possiamo chiamarlo così, è arrivato il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, ha abbassato i tassi di interesse, le borse hanno tutte girato in positivo. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. E poi anche la Grecia, come mai, che ha contribuito ai rialzi, come mai però il miglior titolo è Tenaris, più 14,60%, è vero, ci sono i conti. Esattamente, il movimento generale è quello che hai descritto tu, soprattutto legato alla BCE e alla probabile cancellazione del referendum greco. Invece su Tenaris, che è il miglior titolo tra le blue chip, l'effetto è proprio quello dei conti trimestrali. Tenaris ha guadagnato il 14% a 12,85 euro dopo aver annunciato che nel terzo trimestre l'utile netto è salito del 21% a 365 milioni. La società inoltre ha deciso di distribuire un dividendo intermedio, quindi un acconto sul dividendo di 0,13 dollari, e ha confermato di prevedere ricavi in crescita nei prossimi mesi. Quindi fin da subito dopo la pubblicazione dei conti il titolo è scattato al rialzo e ha chiuso in testa al FTSE MIB. E Tenaris quindi si avvantaggia, oltre che della giornata, anche dei conti del trimestrale, più 20%. Complimenti al gruppo guidato dalla famiglia Rocca. Finmeccanica, che veniva da quattro sedute di bastonamento duro, più 9% oggi. Sì, esattamente, aveva perso il 16%, oltre il 16% nelle ultime quattro sedute. Oggi quindi il titolo è rimbalzato, approfittando anche della notizia arrivata, per la verità, ieri, di nuove commesse per 147 milioni. Si aspetta a breve l'annuncio la prossima settimana dei conti trimestrali e del nuovo piano industriale, che dovrebbe essere messo a punto nelle prossime e presentato nelle prossime settimane. Oggi quindi, dopo i cali che avevano secondo molti reso il titolo economico a buon mercato, sì, gli investitori hanno comprato. ST Microelectronics, terzo miglior titolo di oggi, più 7,41%, facciamo ST e anche Fiat, che si avvantaggia, immagino, dei dati sulle matricolazioni negativi, ma meglio Fiat della media, e ha aumentato anche la sua quota di mercato. Sì, esattamente, ST continua l'effetto positivo di ieri dell'annuncio che Nokia ha scelto la joint venture tra ST ed Ericsson per la fornitura di processori per i telefoni della nuova piattaforma Windows Mobile, e quindi anche oggi, come già ieri, il titolo è stato premiato, oggi più 7,41%, mentre per quanto riguarda la galassia Fiat è la seconda seduta positiva dopo i cali seguiti al trimestrale. Come dicevi tu, hanno beneficiato anche i dati sulle immatricolazioni in Italia. Fiat Chrysler ha visto una flessione delle vendite del 2,9%, ma il mercato complessivo del 5,5%, e quindi il gruppo Il Lingotto aumenta la propria quota di mercato. E infine Buzzi Unicem si avvantaggia anche qui di notizie che arrivano da altri mercati, più 5,40%. Sì, esattamente, in questo caso sono i conti del colosso tedesco Heidelberg Cement, che ha spinto la via di tutti i titoli, sì, del comparto e del cemento. Sul Fuzzi Libre è Buzzi quello che ne ha approfittato, chiudendo a più 5,4%. La Popolare di Milano, il peggior titolo, invece meno 2,45%, ancora procede l'aumento di capitale. Io ringrazio Paolo Poronetto, poi altri titoli, i migliori e peggiori, li daremo dopo il GR, poi la posizione italiana a Cannes, e la Liguria fa i conti con i danni. Avremo il presidente degli industriali lì di La Spezia, a una settimana dal disastro. Purtroppo inizia la quantificazione più seria e articolata. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, concludiamo la pagina di borsa con le altre variazioni oltre a quelle ricordate. Media 7 più 5, 28, Atlantia più 5, 20, Ubibanca più 5, Exor più 4, 90, Fondiaria Sai anch'essa più 4, 90, Lottomatica più 4, 5, Unicredit più 4, 30, Azimut più 4, 20, Mediolanum più 4, 10, Intesa San Paolo più 3, 60%, ci fermiamo con chi guadagna più del 3%, Prismian più 3, 60 come Pirelli ed Enel, A2A più 3,4 e in pregiro più 3,2. Chi perde, oltre alla Popolare di Milano, Tods, meno 0,50%, i migliori e peggiori in assoluto. Dunque, oltre a Tenaris, di cui abbiamo già detto, più 14,60%, Rete Elite più 12,3%, ANG più 10% e Finmeccanica, l'abbiamo discussa, anche BNP Paribas più 8,5%. I peggiori, Meteorios Capital meno 6,16%, Gefran meno 5,60%. Torniamo a Cannes, ma questa volta non per il fronte europeo. A chi si fosse messo in collegamento, abbiamo trattato Atene, che rinuncia al referendum, va a un governo di coalizione per andare anche con l'opposizione, per andare a elezioni, e i mercati festeggiano. La Banca Centrale Europea, che nel primo intervento di Mario Draghi taglia subito i tassi di interesse e i mercati festeggiano, e poi il tentativo di un accordo a Cannes tra Sarkozy e Obama per una tassa sulle transazioni finanziarie. È chiaro che al centro di Cannes, oltre che la Grecia e l'accordo generale sulla crisi, c'era anche, e per alcuni soprattutto, l'Italia. L'Italia e quindi il maxi emendamento con cui è arrivato questa mattina Silvio Berlusconi. Ricordo che c'è stata ieri, si è saputo ieri pomeriggio, che Francia e Germania avrebbero incontrato in un prevertice anche Spagna e Italia. C'è l'inviato del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Buonasera Gerardo. Buonasera a voi. Allora, come è arrivato Berlusconi e soprattutto che cosa è uscito fino adesso? Perché io adesso, onestamente, forse qualche agenzia mi è sfuggita nell'ultima ora, ma non ho visto agenzie con i contenuti di questo maxi emendamento, se non delle cose già presenti oggi sui giornali. Sì, questo è vero. Ma cominciamo col dire questo, che i problemi dell'Italia in un mondo che va come sta andando si vengono molto relativizzati, quindi questo vertice, che è un po' un vertice matriosca che contiene tanti altri vertici, in realtà l'Eurogruppo che si è riunito stamattina è stato soltanto sospeso, cioè i paesi dell'Eurozona che fanno parte del G20, ecco perché c'era la Francia di Sarkozy, la Germania della Merkel, la Spagna di Zapatero e l'Italia di Berlusconi, oltre al Presidente della Commissione Barroso, al Presidente del Consiglio UE Van Rompuy, al Direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde e a un rappresentante della BCE. Berlusconi che cosa ha fatto? È arrivato qui con Tremonti dopo una nottata difficile nel corso della quale voci di corridoio si inseguivano insistentemente su scontri anche addirittura fisici tra Tremonti e Berlusconi, poi cose smentite, in aereo sembra che Berlusconi abbia poi ricucito ampiamente, ha detto vieni qui Giulio, proviamo a fare a tirare un po' di box eccetera, però insomma quello sono siparietti che fanno parte della politica italiana, però la fragilità della politica italiana sta condizionando, come dire, la capacità di implementazione delle misure. Tutti sanno che Berlusconi sta, come dire, perdendo pezzi, gli portano in continuazione il suo portavoce Buonaiuti, le agenzie in cui ci sono prese di posizione, per esempio, oltre che della Bertolini, della D'Ippolito, alcuni del Popolo e Territorio, e di fronte a questi dispacci di agenzia Berlusconi si guarda intorno sconsolato, dice non ci posso credere. Quindi il problema della fragilità politica sta, come dire, sovravanzando e sta tenendo, diciamo, il primo piano anche rispetto ai problemi, diciamo, di merito. Ecco, sul merito però le attese erano per un Berlusconi che arrivasse a Cannes a dire soprattutto ai partner europei, a Francia e Germania, ma anche a Barack Obama e forse anche alla Cina e al Giappone, guardate il recepimento della lettera che abbiamo mandato a Bruxelles si è tradotto o in un decreto di legge come voleva Berlusconi o in un maxi emendamento come voleva il Quirinale e anche da quello che abbiamo capito il ministro Tremonti, perché il decreto legge avendo 60 giorni di tempo può essere, cioè durando 60 giorni diventava uno strumento più rischioso, invece il maxi emendamento andrà a porre la fiducia come Berlusconi ha già anticipato. Ma sui contenuti di sto maxi emendamento? Berlusconi ha illustrato i contenuti del maxi emendamento dicendo che sostanzialmente traduce in atti quello che è il contenuto della lettera inviata alla BCE, tranne i licenziamenti fragili, cioè la riforma dell'articolo 18, sulla quale verrà avviata in tempi rapidi una negoziata, una trattativa con le parti sociali e con i sindacati. Per il resto, confermata il piano di dismissioni delle proprietà di mobili pubblici, nella lettera si parlava di un gettito previsto di 5 miliardi di euro. Adesso sappiamo per certo che non c'è una cifra precisa e non sappiamo qual è il veicolo finanziario, se un fondo di investimento o altro, per reperire e per mettere in vendita questi beni. Primo. Secondo, l'obiettivo riconfermato del pareggio di bilancio entro il 2013, questo anche nell'action plan del G20 si fa stato di questo impegno, ma si ricorda che deve essere conseguito fully and swiftly, cioè pienamente e rapidamente. E poi ovviamente tutti gli altri impegni della liberalizzazione delle professioni, le privatizzazioni delle municipalizzate, non sconti fiscali ma sostanzialmente agevolazioni per quelle imprese che lavorano nelle grandi opere. Quindi sostanzialmente i punti della lettera inviata, esatto. Anche se tu stai citando quello che Berlusconi avrebbe dichiarato ai partner o ci sono state dichiarazioni ufficiali anche alla stampa, giusto per capire, perché siamo... No, siamo ancora in dichiarazioni che lui ha detto, cioè dichiarazioni che ha fatto, illustrazioni che ha fatto all'interno dell'Eurogruppo, poi anche al G20, nel giro di tavolo, la prima sessione del G20, ricordando che l'Italia comunque ha fondamentali solidi e che le esportazioni sono aumentate al 17% all'inizio dell'anno, è un problema di debito e su quello si sta ponendo mano. Ma parliamo sempre di diciamo derelato, cioè sono delle cose che ci vengono date dai responsabili della stampa. Non ci saranno contatti diretti oggi con Berlusconi, sono previsti domani probabilmente. E allora domani, grazie intanto a Gerardo Pelosi in collegamento con noi da Cannes, la linea al traffico, e poi ci spostiamo invece da Cannes alla Liguria, perché oggi il primo computo forse definitivo dei danni causati dall'alluvione al mondo delle imprese e quindi dell'attività del tessuto economico di La Spezia, delle Cinque Terre. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso ci spostiamo in Liguria. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 sul tema, su quanto abbiamo ricordato. Allora, mi riferisco ai parlamentari e al Consiglio regionale della Campania. Non ho, la devo ridire, vabbè, dai, se mi date la stessa base di prima la riraccontiamo, perché alcuni non hanno capito, altri pensano che sia uno scherzo. È tutto vero, comunque. Allora, questa settimana cruciale per l'Italia, in cui l'Italia ha rischiato grossissimo, ammesso che sia finito il rischio, sul debito, il Parlamento italiano si è riunito una volta e mezzo. Voi direte perché mezza? Perché ieri, per permettere ai parlamentari di rientrare con calma, senza code, senza traffico, senza viaggi notturni, senza quello che facciamo noi di solito, a Roma... La seduta è iniziata alle 16. Ciò nonostante le difficoltà del traffico, gli impegni per il ponte e quant'altro, preparare e disfare le valigie ha permesso solo a 12 parlamentari di arrivare in tempo, e infatti erano 12 presenti in tutta la Camera, 12 deputati. Nel frattempo a Napoli continua a allargarsi l'adesione all'iniziativa di far pagare cifre folli ai deputati quando vanno al ristorante, perché il ragionamento è: visto che pagano 7 euro per mangiare al ristorante della Camera, almeno glieli facciamo recuperare noi. Nel senso che a Sergio D'Antoni, parlamentare del PD, è già successo di beccarsi 100 euro di conto per una pizza margherita. E 30 ristoranti di Napoli hanno aderito a questa iniziativa, per cui il caffè lo fanno pagare 90 euro, i panini 350 euro, la pizza 300-400 euro e addirittura, ripeto, i pastori di San Gregorio almeno a 1200 euro, se vuoi farti un presepe. Ma sempre la Campania ci dà anche questa bellissima notizia. Annalisa Vassella, l'abbiamo cercata, non riusciamo a trovare, è consigliere regionale campano ed è moglie del deputato dei responsabili Michele Pisacane, prende 10.000 euro al mese per fare il consigliere regionale, ma essendo diventata anche amministratore delegato dell'Istituto di Sviluppo Agroalimentare, che è l'agenzia finanziaria del Ministero dell'Agricoltura, da quando è arrivata, subito dopo l'assemblea, il consiglio di amministrazione, scusatemi, ha deciso di quadruplicare gli stipendi. Per cui la consigliera Annalisa Vassella guadagnerà 140.000 euro lordi, più 117.000 euro di indennità all'anno, più 55.000 euro forfettari per alloggio e auto, più i 10.000 euro al mese come consigliere regionale. E io pago! E io pago! Giorgio Bucchioni, presidente di Confindustria La Spezia, buonasera. Buonasera a voi. L'ho fatta arrabbiare? No, è che di fronte a quello che è successo a Spezia, le notizie che ha appena dato farebbero arrabbiare chiunque. Io altro non posso aggiungere perché resto sui temi di economia. Purtroppo qua parliamo di soldi in negativo, cioè dei danni causati dall'alluvione. Intanto mi dica una cosa, com'è il tempo? Perché leggiamo, diamo aggiornamenti. Il tempo è coperto e le previsioni sono di allerta 2 per domani con peggioramento da questa notte. Allora, avete fatto come Confindustria della Spezia un primo computo dei danni complessivi. Noi avevamo un dato iniziale di 1 miliardo di euro, cioè 30 strade sepolte dalle frane, 6 ponti crollati, alvei dei fiumi devastati, però insomma questo era un calcolo iniziale. Mi dica le stime vostre di oggi. Ma guardi, per ora sono solo numeri in libertà, perché nessuno può ancora dirlo. Le aziende per fare la domanda di risarcimento hanno 20 giorni dall'evento. Quest'oggi abbiamo fatto una riunione in Confindustria con una sessantina di aziende che hanno subito danni e contiamo nel giro di 10 giorni di avere un conteggio che sia più attendibile. Comunque siamo nell'ordine delle decine di milioni di euro di danni. Ah beh, mi sembra il minimo. Per quello che riguarda, tra l'altro si era segnalata una cosa molto interessante a mio avviso. Voi avete detto di essere disposte anche a inviare personale e mezzi per, come Confindustria, come imprese spezzine, sì, per ricostruire il territorio dell'alluvione, ho capito bene? Guardi, c'è l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale Costruttori, che è la nostra sezione di Spezia, che è mobilitata sull'argomento anche con la previsione di mettere in sicurezza per i prossimi mesi tutto ciò che ad oggi non è in sicurezza, perché la cosa che non va sottovalutata né dimenticata è che sono 3 anni che noi abbiamo esondazioni dei fiumi e alluvioni che non sono né devastanti né portatori di morte come quest'ultima che c'è stata, ma che si ripetono continuamente, e quindi occorre che vengano assunti dei provvedimenti che non possono essere quelli di non fare nulla come è stato negli ultimi 20 anni. Per ora quanti lavoratori, quante imprese voi stimate sono state colpite dall'alluvione e quanti lavoratori sono interessati? Noi consideriamo una 50 di imprese e i lavoratori sono tra i 1.500 e i 2.000. Tra i 1.500 e i 2.000. Le ha fatto piacere la solidarietà, immagino, del Presidente di Confindustria Vicenza, Zuccato, Roberto Zuccato? Assolutamente sì, colpita... mi ha fatto molto piacere, ma anche altri, a partire da Emma Marcegaglia, che proprio oggi ci ha scritto una lettera non solo di partecipazione, ma di sostegno concreto. Con i soldi? Con qualche soldo. A lei sono risultati casi di speculazione? Perché a noi giungono notizie anche un po' strane, no? Per una pala chiesti 40 euro, la bottiglia di acqua minerale 5 euro, addirittura al marito di Rita Cozzani, purtroppo vedovo a questo punto perché la moglie è morta, sono stati chiesti 120 euro per recuperare la macchina. Insomma. Ma guardi, sì, le ho lette anche io sul giornale, anche se poi ho visto che ci sono state ritrattazioni da parte di coloro, per esempio il marito di Rita Cozzani, che era un mio compagno di scuola, che ha poi visto annullare questa richiesta, non solo, ma per il recupero delle automobili la prefettura ha detto che interviene lei in prima persona. Che cosa chiedete voi adesso? Cioè di cosa avete bisogno? Ammesso, e io noi ve lo auguro bisogno, con tutto il cuore, che non capiti nulla nei prossimi 2 giorni. Noi abbiamo bisogno di avere un piano per il futuro che consenta di mettere in sicurezza, come succede in tutta Europa, i fiumi Vara e Magra. Ed è un problema che esiste da 20 anni e che non può più essere rinviato per un supposto ambientalismo che non ha proprio nessun significato. Ecco, mi dico una cosa, ma è più l'assenza di fondi per mettere in sicurezza gli alvei dei fiumi e quant'altro, o il fatto che si è costruito con licenze, non so se comunali, provinciali o regionali, imposti? Guardi, mi dica. La questione della cementificazione selvaggia in questo episodio proprio non anche perché nulla. Sulle Cinque Terre né nelle Cinque Terre, dove non si cementifica proprio niente, né a Brugnate e Borghetto, che sono nella Val di Vara, che no, dove non si cementifica proprio niente. Il problema è che è stato un accadimento eccezionale, ma si è andato ad innescare su un'incuria che potrebbe essere affrontata in maniera minima riconsentendo le buone pratiche agricole della rimozione del legno e dei massi dal fiume, oppure con degli investimenti più produttivi. Qui è da quando è stata costruita l'autostrada che il fiume non viene dragato e nessuno riesce a capire le ragioni. Cioè, ma più che le ragioni, le responsabilità, Presidente. Oh, bravo, e infatti, siccome ci sono degli enti che sono deputati alla regimazione e al controllo del fiume, evidentemente hanno del supporto scientifico che non corrisponde alla realtà della natura. Ma lei ha capito che doveva dragare il fiume, per esempio? Il fiume deve essere dragato a cura degli enti predisposti. C'è un ente bacino, c'è un ente parco, c'è una provincia che devono fare queste cose qua. Devono autorizzarle e farle. Se non lo vogliono fare, devono mettere in movimento dei meccanismi che consentano alle imprese, con il materiale che dragano, di autofinanziarsi. E cioè, no, è interessante questo, cioè... E certo, se ci sono un'impresa può dragare, siccome di inerti ce n'è bisogno e noi li stiamo importando dalla Jugoslavia, allora tanto vale che le imprese vengano autorizzate a escavare il fiume, naturalmente con tutti i controlli, che non avvenga nulla di devastante, e a vendersi questi inerti e con la vendita degli inerti finanziare. Mi scusi l'ignoranza, ma gli inerti, cioè i materiali, significa le pietre le sabbie del fiume, e vengono usate per cosa? Per le costruzioni? Le sabbie vengono usate per ripascere le spiagge, figurati. E gli inerti vengono utilizzati per le costruzioni. Per cui voi ne avreste anche un bisogno, diciamo, ci sarebbe anche un ritorno economico in chi va a pulire. Ma pensa un po'. Ma sì. No, perché allora non si capisce veramente, o lo fa l'ente preposto o fatelo fare ai privati, che almeno si pagano. Certo, fanno delle convenzioni, fanno dei contratti, ci sono i controllori, io non lo so. Abbiamo un apparato statale che è elefantiaco, quindi non mancheranno certo le persone per poter controllare che le cose vengano fatte con criterio e secondo le autorizzazioni. Allora, Presidente Bucchioni, in bocca al lupo a tutti gli spezzini della provincia, agli imprenditori e ai cittadini. Mi fa fare ancora una battuta, dottore? Sì. Questa mattina c'è stata la consegna all'Intermarine, che era andata sott'acqua e era piena di fango, del cacciamine alla Marina finlandese. È venuto il sottosegretario Gianni Letta, è venuto il presidente della regione, gli assessori regionali, c'erano tutte le autorità. È stata una dimostrazione di capacità di reazione da parte di un'impresa italiana, l'Intermarine, che nel giro di una settimana è ritornata produttiva e agli occhi del mondo ha adempiuto ad un contratto con uno Stato estero. Io l'ho trovata una cosa entusiasmante, e quindi mi piace estendere e socializzare ai suoi ascoltatori. Ha fatto bene, così una volta tanto chiudiamo questo programma con una bella notizia, una buona notizia, ce ne sono poche in questo periodo, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto però grazie veramente in bocca al lupo a Giorgio Bucchioni, presidente della Confindustria di La Spezia, e per oggi è tutto. Radio 24, la passione si sente.